Brasil. La nostalgia do Brasil. Brasil está ali. L'Italia qui. Convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Terminalo, terminalo, terminalo. 24 anni passaron, 24 anni passaron. Eravamo pendejos, era joven vos, era joven vos, era joven vos, era joven vos, era joven vos. Estamos en la semi, estamos en la semi, estamos en la semi. 24 anni passaron, 24 saranno anche passati 24 anni, però 800 24 00 24, 800 24 00 24, come gli anni che mancavano per la semifinale dell'Argentina. Prenotatevi, perché voglio sapere cosa ne pensate, ad esempio se siete d'accordo con me, cioè che questo non è il mondiale del Brasile, ci sarà un nuovo Maracanazo, e che accada mercoledì a Fortaleza o esattamente tra una settimana al Maracanà poco conta. 800 24 00 24. Abbiamo convocato anche Alejandro Infantino, che è il mio idolo assoluto di questo mondiale. Lui è Infantino. Da 24 anni l'Argentina non andava in semifinale, ce l'ha portata El Pipa Higuaín, perché ho scoperto che si dice El Pipa, non El Pipita. Ci sarà la semifinale contro l'Olanda di Van Gaal, ma per gli argentini e per i brasiliani è un dettaglio, non conta nulla, perché la testa è già lì all'idea di farsi una semifinale, una finale al Maracanà contro il Brasile. Io oggi ho convocato quelli veri, quelli seri. Matteo Marani, direttore del Guerri Sportivo, ciao Matteo. Ciao, buongiorno, buongiorno, ben trovato. Fabrizio Biasin, collega di Libero. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Me lo fate sentire ancora Fantino? Lo vivo alto. Brasil, ganale Alemania. Te lo ruego. Brasil, ganale Alemania. Te lo pido por Dios. Te lo pido por la Pompasina. Te lo pido por Lula. Meraviglioso, È convinto, No, lui chiede, Brasile, ti prego, te lo chiedo per Dio, te lo chiedo per qualsiasi cosa, vinci contro la Germania, perché io ti voglio vedere al Maracanã. Io fossi un brasiliano, carissimo Matteo Marani, non chiuderei occhio io questa settimana. No, hai ragione, volevo intanto dire una cosa. A me risulta che si chiama proprio il Pipita, perché il Pipa è il Papa. È il papà che aveva, cioè, suo padre che è stato giocatore. Sai che lui tra l'altro è nato in Francia, è nato a Brest, mentre il padre ha fatto un anno solo in Francia ed era il Pipa, e da lì nasce poi la leggenda del Pipita. Ma io credo che sia... Però io ho ascoltato le radiocronache anche del mitico Alejandro, forse, sì, forse in contrazione, il Pipa, ma poi dopo magari lo sentiamo anche esatto, in campo, con loro c'è anche il Papa. No, volevo dire una cosa. È chiaro che è il sogno massimo in questo momento per gli argentini, poter solo immaginare di aver di fronte il Brasile al Maracanà nella finale delle finali, che forse in assoluto sarebbe la più grande finale, io credo, della storia, perché è la sfida del Sud America. Sarebbe tra l'altro un inedito, perché vado a memoria, a parte la primissima del 30, Uruguay-Argentina, in cui andarono due sudamericani. Sì, non c'è mai stata. Non c'è mai stata una finale senza un'europea. Tra l'altro ho scoperto che è la prima volta che Brasile e Argentina insieme arrivano alle semifinali. Così dicono le statistiche, contemporaneamente, quindi anche questa è una primizia. Però io voglio sapere cosa ne pensate da casa. 800 24 00 24, perché noi qui lo diciamo da un mese, questo non è il mondiale del Brasile, anzi noi ieri abbiamo celebrato la grandissima, lo posso dire, Giorgio De Luca, autore di questa puntata, lo posso dire, la grandissima botta di culo di Scolari, che si è confezionato l'alibi perfetto: qualunque cosa accadrà, tanto sarà colpa di Zuniga. Anzi, noi continuiamo a rilanciare anche Freedom for Zuniga, poi chiederemo a Pierluigi Pardo dal Brasile se, insomma, se l'hanno fatto partire, se l'hanno arrestato, se hanno notizie di Zuniga. Ti è piaciuto, Fabrizio, l'Argentina ieri? No, assolutamente no, però è un'Argentina piena di difetti che in un modo o nell'altro è arrivata a questa semifinale. La verità è che Infantino, ma non solo lui, ragionano già sulla finale, cioè la semifinale con l'Olanda è una pura formalità per loro, a differenza del Brasile che invece ha un osso durissimo. La Germania, stanno già facendo un po' di confusione su squalifiche, infortuni. Sì, perché la notizia di oggi, succedono cose da pazzi anche oggi in Brasile, eh? Ieri ve ne abbiamo raccontate di incredibili, c'era chi voleva arrestare Zuniga, oggi succede, è successo pochi minuti fa. Cosa ha fatto la federazione brasiliana? Si è svegliata, perché insomma lì è mattinata, siamo quasi all'ora di pranzo, e ha chiesto l'annullamento della squalifica di Thiago Silva, oltre alla solita punizione per Zuniga, ma questo credo che sarà il ritornello che ci tiriamo avanti per una settimana. Io chiedo l'annullamento di tutte le mie multe prese negli ultimi 2 anni qui a Milano, nel frattempo. Perché... Sì, anche perché Thiago Silva mi risulta sia squalificato, sì, perché era diffidato, ha preso un cartellino giallo. È stato graziato durante la partita, onestamente, cioè il cartellino ha aspettato fino all'ultimo per estrarlo e alla fine non ha potuto fare a meno di farlo. E sul discorso invece di Zuniga, loro già ieri avevano fatto capire che avrebbero chiesto un intervento della FIFA, dato che l'arbitro non l'ha potuto vedere questo intervento. Tu fai bene ovviamente, Giovanni, a cercare un po' di equilibrare i giudizi su Zuniga. Resta la gravità e, cioè, la pesantezza di quell'intervento, un intervento scomposto, un intervento pericoloso, un intervento troppo impetuoso. Insomma, non si può andare in quel modo alle spalle di un giocatore, perché il giocatore non sente che tu stai arrivando, e quindi questo può creare veramente danni. Sì, però ne abbiamo visti tanti, qualcuno ieri ci ricordava anche Balotelli quando è stato ammonito contro l'Uruguay per quell'intervento scomposto, gamba altissima, ginocchio alto. Beh, in fondo non è che avesse fatto qualcosa di poi molto diverso da quello che ha fatto Zuniga l'altra sera era contro Neymar. Il problema di Zuniga è che quell'altro era Neymar, e quindi non andare troppo lontani, per mille motivi questo ha creato un problema, oltre ovviamente all'infortunio. In Francia, Nigeria, Matuidi fa un'entrata assassina su Onazi, eppure nessuno ha detto niente. La differenza, facciamo finta che siano tutti giocatori uguali, in realtà Neymar è più uguale degli altri. Comunque questo non è il mondiale del Brasile, io lo ribadisco, noi lo diciamo da un mese, diciamo vince la Germania, finale contro l'Argentina, Brasile si sarebbe arenato in questa semifinale contro la Germania, a maggior ragione lo pensiamo adesso, mancherà Neymar, mancherà Thiago Silva, magari mancherà anche Willian, perché non sta andando benissimo da questo punto di vista. Scolari, vorrei sapere anche cosa ne pensate a casa. 800 24 00 24. Intanto abbiamo vissuto un pomeriggio un po' strano con la Formula 1, l'abbiamo raccontato nei GR, c'è stato l'incidente di Raikkonen, c'è stato il ritiro di Rosberg, che noi festeggiamo con un applauso, perché almeno avremo qualcosa da raccontare nelle domeniche di Formula 1 da qui al mese di novembre. A Wimbledon, in campo Djokovic e Federer, terzo set 5-4 per Federer, ma andrà lunga così come lunghi sono stati i primi due set. Facciamo così, ci fermiamo, traffico, poi ripartiamo. 800 24 00 24. Di Maria va por la derecha, puso la pelota para el Pipa, gol del Pipa. Convocati. Di Maria prova a dare in verticale, poi Guai! Di Umagna e Paracrull è entrato per questo e porta l'Olanda in semifinale a San Paolo, che affronterà l'Argentina. Si può essere eroi in un minuto, in una notte incredibile a Salvador de Bahia. Sì, si può anche avere delle incredibili botte di fortuna perché intanto questo team Krull non è un pararigori, perché in carriera ne ha parati due prima di ieri sera, 2 su 20. Io credo che se noi chiamiamo qualunque portiere italiano di Serie A ha delle statistiche migliori, però, tranne Buffon. Però da ieri è ufficialmente un pararigori, e Van Gaal, che ha rischiato tutto, è ufficialmente un genio. In realtà erano pronti processi e forca per lui. 23:34 di ieri sera, Gullit, che evidentemente si stava annoiando, scrive su Twitter: beh, questo è il calcio che vogliono i puristi olandesi. olandesi, tanto possesso palle, zero occasioni. Poi tu scegli di cambiare il portiere, ti va bene, passi per un genio. Sì, ma secondo me però non ha visto la partita Gullit, probabilmente, perché l'Olanda ha creato tante di quelle occasioni. Beh, ieri 70 minuti di insomma di poco. Sì, poi dopo, okay, dopo, poi però dopo sono arrivate, voglio dire, onestamente l'Olanda ieri meritava di vincere la partita, non c'è storia. Cioè la Costa Rica ha fatto giustamente la sua parte, che era quella di difendersi, l'ha fatto in maniera molto attenta, molto organizzata, come è la caratteristica della squadra di Pinto, che secondo me è uno, diciamo, degli allenatori che meglio ha messo in campo la propria squadra. Dopodiché sono stati presi due pali, dopodiché Tejeda ha salvato sulla linea, l'Olanda ha avuto, voglio dire, tutte le anzi, di solito quando le partite si mettono così in genere i rigori le perdi. Secondo me è stato bravo ieri Krul dal punto di vista psicologico, perché veramente il suo atteggiamento anche irritante ha come dire dimostrato, cioè ha sì, cambiato, lui si avvicinava, ha raccontato, gli diceva io so dove tu tiri, questa cosa ha fatto una pressione psicologica evidente, tra l'altro forse anche al limite del regolamento, cioè l'arbitro un po' gliel'ha consentito, questo non sarebbe permesso. Comunque ha fatto giù la sua parte, ha cambiato come dire il corso dei rigori, perché probabilmente con Silesen sarebbero stato un altro tipo di rigori. E credo che sia stata una mossa giusta. Poi sai, è chiaro che noi quando giudichiamo tendiamo a dipingere in maniera roboante, per cui improvvisamente Van Gaal è un genio, improvvisamente ha avuto la risoluzione magica. Secondo me Van Gaal è un ottimo allenatore, non a caso il Manchester ha fatto bene a prenderselo. E tra l'altro la anche vera perché forza, peggio di Moyes era difficile, no, impossibile, e quindi... tecnicamente impossibile. No, voglio dire, oltretutto il vero merito in questo mondiale di Van Gaal, secondo me, è di andare contro la storia e la tradizione olandese, che costa tantissimo per gli olandesi, perché per gli olandesi il calcio è solo 4-3-3, non esiste altro, cioè dai tempi di Cruyff quello è stato concepito. Quindi l'idea che quest'uomo qui stia difendendo a tre e che vada avanti con le sue idee, tra l'altro con le critiche enormi della piazza, secondo me lo rende uno veramente forte e libero nelle sue scelte, e questo credo che sia il suo merito maggiore. L'Olanda, io credo che ieri abbia attraversato la partita più difficile, perché nel corso del mondiale una partita difficile ce l'hai sempre, l'ha avuta l'Italia nel 2006 con l'Australia, chiunque è arrivato a vincere ha avuto una partita difficile. Ieri secondo me l'Olanda ha avuto quella sua difficile. Il fatto che l'abbia passata, io non do per scontato che l'Argentina vada in finale, perché io credo che l'Olanda sia una squadra difficile da affrontare davanti a un signore che si chiama Robben, che è quello che finora ha deciso di più in questo mondiale, perché noi abbiamo celebrato Amer Rodriguez, abbiamo ovviamente Messi, lo stesso Messi, Neymar prima, c'è stato. Non c'è dubbio. Dopodiché vai a vedere quello che ha fatto Robben, cioè come è riuscito a spostare la squadra. Anche ieri, che era una giornata non particolarmente ispirata per lui, alla fine è stato l'uomo comunque determinante insieme a Snyder dell'Olanda. E quindi secondo me l'Olanda è un bruttissimo cliente. Aggiungo, visto che l'aspetto storico sempre un po' mi piace, mi interessa, 74-78 l'Olanda andò due volte in finale, 2010-2014 potrebbe ripetere quella storia lì. Sì, corsi e ricorsi della storia, Olanda che non l'ha mai vinta una finale, no. Quindi gli argentini fanno il conto con i 24 anni di assenza dalle semifinali. Quella del 78 non fu una partita vera. Sì, fu una partita che era segnata, a proposito di Argentina, cioè, doveva andare a finire così, quella e anche alcune delle partite che hanno preceduto quella finale, ma la storia del 78 insomma ormai è stata ricostruita abbastanza chiaramente. 8-0-0-24-0-0-24, sì, tutto vero, Robben, però è anche vero che lo stesso discorso si può fare sull'Argentina, ad esempio, che ha vissuto le prime 5 partite un po' sempre in bilico, poi ha sempre trovato il colpo di un campione, Messi contro l'Iran, Di Maria contro la Svizzera, poi ieri ha segnato invece il Pipita Higuain, squadra forse meno solida, poi tanto la più forte di tutte è la Germania, questo è il mio pensiero, e la Germania andrà a vincere domenica prossima la Coppa al Maracanà, però squadra che insomma una squadra che può fare a meno di Agüero, di Tevez, vediamo adesso Di Maria, è certamente una squadra che ha tutti i numeri per arrivare in fondo. Guarda, la differenza come sempre la fanno i campioni, cioè, questa è un'Argentina che gioca male però che ha un potenziale incredibile, probabilmente si è tenuto le carte migliori per semifinale e finale. Loro danno per scontata la semifinale, io credo che sarà una partita meravigliosa con un'Olanda stravolta che però farà di tutto per arrivare in finale. Io credo che vedremo finalmente l'Argentina giocare da Argentina, fino adesso non l'abbiamo vista. Faccio un passettino indietro e ti dico che io, che sono un po' più cialtrone del direttore, ieri mi sono inginocchiato davanti al televisore di fronte a Van Gaal, che ha fatto secondo secondo me è una cosa straordinaria, perché è vero, può essere una cosa improvvisata, però tenerti l'ultimo cambio in una partita così complicata al 119esimo senza far rifiatare un altro degli 11 in campo è qualcosa di mai visto. No. Osvaldo Iacconi 1996 poi spareggio per salire in Serie B, diciamo, contro l'Ascoli. Però la differenza è che ieri non è entrato in campo un portiere o un pararigori, è entrato in campo un attore, cioè è entrato in campo un attore che ha fatto la differenza non per qualità calcistiche ma per qualità di improvvisazione, e questa cosa rimarrà nella storia. Sì, Luciano da Varese, dai, 800 24 00 24, oggi cerchiamo di dare anche spazio agli amici da casa per capire cosa ne pensano anche di questo quartetto nobile. Oggi molti giornali sudamericani titolano sulla nobiltà delle quattro semifinaliste. Io lo dico provocatoriamente, ma questa notte ho esultato all'eliminazione della Costa Rica, perché secondo me ci vuole anche un profilo di nobiltà nella semifinale di un mondiale. Grazie alla Costa Rica, grazie, arrivederci, però abbiamo dato questo è il anche mio pensiero, non grazie, visto quello che è successo a noi. Ma noi siamo andati fuori meritatamente. Questa è una visione però, Giovanni, consentimi, un po' classista, cioè, chi non ha il palmarès, no, battute a parte, vanno comunque in semifinale, ci sono 10 mondiali vinti, è qualcosa, vuol dire, su 19. Sì, ma difatti molto alla fine arrivano quelli, alla fine arrivano che con tutto il rispetto che Argentina Costa Rica. Luciano da Varese, Luciano. Sì, pronto? Sì, ciao. Sì, buongiorno. Senta, io avevo chiamato ieri per una questione della di Zuniga. Sì, io, siamo qui. Io non ce l'avevo con Zuniga. Sinceramente è anche un bravo, dall'aspetto sembra una brava persona, un ragazzo che si impegna. Però io l'ho chiamato perché quel tipo di intervento fatto con un avversario che difende il pallone e non vede neanche arrivare l'avversario è pericolosissimo. Cioè, la conseguenza comunque che ha lasciato su quel gioco, su giocato su Neymar, è una conseguenza abbastanza grave. L'intervento è un po' maldestro, non un po', un bel po' maldestro, insomma, bisognerebbe cercare di frenare le persone prima, cioè insomma, uno ha fatto un danno. È giusto che paghi anche per il danno. Sì, Luciano, ma si è esagerato però, tutto quello che è stato vissuto dopo. Io a proposito, mi piace la privacy alla brasiliana, praticamente Neymar è stato filmato in ogni fase del suo ricovero. Notizia di oggi, l'infermiera poverina, l'unica che ha fatto quel filmino nel corridoio dell'ospedale, è stata licenziata. Tutti gli altri, le altre decine di video invece tutto a posto. Quindi però, ha pagato più l'infermiera, sì, ha pagato più l'infermiera. Però vi leggo cosa ha scritto oggi sulla Gazzetta dello Sport Maurizio Fornari, responsabile reparto neurochirurgia dell'Humanitas di Rozzano in provincia di Milano. Falli così se ne vedono a centinaia, a fare la differenza non è l'entità del colpo ma la tensione muscolare di Neymar quando riceve la botta, quella è stata la differenza, perché di falli così, spiega questo chirurgo, ce ne sono tanti. Io sono abbastanza d'accordo con questa visione. Paolo da Asti, Paolo. Paolo. Sì, buongiorno. Ciao. Niente, io sono di parere opposto rispetto all'intervento dell'ascoltatore precedente, perché solo chi non ha giocato a calcio può accusare di essere assassino Zuniga e tutto quello che si vuole. Giocando a calcio quelle cose lì, cioè quei falli lì succedono. Poi purtroppo il risvolto è stato di un infortunio più o meno grave, eccetera, ma quei falli lì succedono e fanno parte del gioco, anzi. Sì, e poi ci sono le conseguenze. Intanto c'è un grandissimo Nibali, siamo all'ultimo chilometro della seconda tappa del Tour de France. C'è Nibali che ha tentato lo scatto, siamo agli 800 metri, si sta filando via verso il traguardo. Vincenzo Nibali, Giancarlo da Roma. Giancarlo, pronto? Prego. Sì, salve, buonasera innanzitutto. Niente, volevo rispondere anche all'ascoltatore che poc'anzi diceva che chi ha giocato a calcio quei falli se ne vedono. Beh, non credo, insomma, io ho giocato a calcio, ho fatto tanti anni da boxe, credo quello sia più un intervento da boxe, da pugilato che da calcio. Ora, non ho seguito fino in fondo la vicenda e non so che provvedimenti disciplinari sono stati presi verso il giocatore appunto che ha commesso. Ma io credo zero, nel senso che lui non è stato ammonito in campo. Oggi è zero, però c'è la sollecitazione da parte della federazione brasiliana per un'inchiesta per avere una qualifica, una sanzione posta. Però io lo voglio dire, decidiamoci quando serve o quando non serve la televisione. Però la FIFA può intervenire quando vuole, cioè a differenza dell'Italia in cui è sovrano, diciamo, il giudizio dell'arbitro. per cui la famosa vicenda destra, ci ricordiamo il fatto che il fallo fosse scomposto e l'arbitro non aveva visto la seconda parte, qui la FIFA può fare esattamente quello che vuole, cioè se anche l'arbitro in campo ha preso una decisione, la FIFA può scegliere in un'altra maniera e andare per la sua strada. Che è una cosa allucinante, perché se si apre un'inchiesta per questo caso, allora io mi metto nei panni di tutti quelli che non si chiamano Neymar e hanno ricevuto falli assassini e sono nei loro lettini d'ospedale a guardare quello che è successo invece a Neymar. Intanto scusate, sventola non è un intervento tricolore, assassino, però è un intervento un po' irruento, questo possiamo dire. No, è un intervento irruento, lo possiamo dire, è un quello, intervento grave, quello che noi contestiamo è l'esagerazione che è stata fatta infatti, dopo. Ma infatti guarda, Paolo ha ragione, cioè chi ha giocato a calcio sa che queste cose succedono a decine in una partita, il problema è che poi ci sono le conseguenze, ti può andare bene 99 su 100, se succede una cosa del genere poi non puoi far finta di niente. Intanto sventola il tricolore al Tour de France, Nibali ha vinto la seconda tappa del Tour de France con un paio di secondi di vantaggio sul gruppo, ci fermiamo, 800 24 00 24, aspettiamo le vostre chiamate. Intanto gonfiamo il petto d'orgoglio per Vincenzo Nibali, che ha vinto la seconda tappa del Tour ed è maglia gialla, quindi un italiano in giallo al Tour. In realtà siamo in Inghilterra, cosa che magari fa perdere un po' di poesia, però noi siamo orgogliosi lo stesso. Ha fatto una cosa bellissima, tra l'altro sul traguardo ha mostrato il tricolore, in questo periodo di brutte figure col calcio quantomeno ci consoliamo col ciclismo. Sì, Vincenzo Nibali, le cichi ieri che ci hanno riempito d'orgoglio a Wimbledon, dove invece è finito il terzo set di Djokovic avanti 2-7-1. Ha vinto il terzo al tie break contro Federer, 800 24 00 24. Noi però restiamo a parlare del mondiale, mi interessa sapere anche qual è il vostro pronostico da casa sulle due semifinali, si comincia martedì Germania-Brasile, poi mercoledì Argentina-Olanda, c'è Pierluigi? Pier? Eccolo. Ciao, buon pomeriggio, ho convocato quelli veri, oggi sì, Fabrizio Biasin, Matteo Marani qui per fare un po' la radiografia di questo mondiale. Enorme qualità. Non esageriamo. Sono delle norme che colpisci. Sì, soprattutto enorme. Pier, tutto bene in Brasile? Hai notizie di Zuniga? Hai notizie di Zuniga? L'hanno fatto partire? È stato trattenuto per certamente, no, mi risulta che sia ancora a piede libero, quindi A piede libero, no, perché abbiamo dovuto ricominciare da qui, perché da casa scrivono, telefonano ancora sul fallo di Zuniga su Neymar, io lo ripeto, quante esagerazioni, la nostra campagna Freedom for Zuniga, che a questo punto se è a piede libero possiamo anche sospendere ufficialmente in questo momento, sta raccogliendo un sacco di adesioni, non ha aderito José Altafini, io ve lo voglio far risentire, perché ieri secondo me si è anche un po' arrabbiato Pierre, ieri quando gli abbiamo detto che in fondo Zuniga non aveva fatto niente di particolarmente grave, secondo me si è un po' arrabbiato. Non veniva a dire che lui non l'ha fatto apposta, lui è entrato con le ginocchia piegate sulla schiena di Neymar, questa è un'entrata da 3 o 4, minimo 4-5 giornate di squalifica. E poi sulle speranze del Brasile, perso Neymar. Ormai è finita, cosa vuoi che faccia? Brasile già giocava in 8 tutte le partite, figura adesso manca ancora il giocatore principale. Vabbè, comunque sono cose che succedono. Comunque il Brasile ha vinto un mondiale nel 62 senza Pelé, non dico che succederà la stessa cosa, ma il problema è che non ci sono sostituti, perché nel 62 è entrato Marido, è stato anche il protagonista. Che si dice oggi, Pier, a proposito del Brasile senza Neymar? Allora, oggi sui giornali c'era tutta la telenovela, ovviamente, ieri l'immagine simbolo era sui giornali di ieri era la barella. Oggi invece è lui in elicottero, è lui che saluta, che dice a presto, il titolo proprio di Io Globo, della parte sportiva di Io Globo è a te breve, quindi ci vediamo presto, a presto, e poi insomma c'è questa fila di persone sotto casa sua. Tutti con lui, ieri abbiamo sentito anche negli altri due quarti di finale tanti cori per Neymar, ci sono tutte le varie twittate. Sì, c'è anche un genio di tifoso argentino che si è presentato ieri allo stadio a Brasilia con in mano una colonna vertebrale. Risulta dalle cronache, ho letto su un sito brasiliano, che ha rischiato il linciaggio prima di riuscire ad entrare allo stadio, lui e la sua colonna vertebrale. Matteo, no, io oggi sempre sul Globo c'è una paginata molto bella che adesso magari vi faccio una foto, la mettiamo. Con le vertebre della nazionale, forse era su un foglio di San Paolo, quindi non ce l'ho qui, sì, con le vertebre della, diciamo, la spina dorsale, la colonna vertebrale della nazionale brasiliana, che a questo punto, insomma, è appesa soprattutto a David Luiz, a Julio Cesar, a Scolari, insomma, non è chiaro che senza Thiago e senza Neymar ci vuole una grande prestazione. Sì, anche qualcosa. Ma io stavo ragionando su questo, Pierluigi, perché tutti ovviamente in questo momento tendono a dire la Germania è nettamente più forte, che in effetti mi sembra la squadra più forte di questo mondiale, e tutti danno, come dire, grandissima favorita alla Germania e quasi fuori il Brasile. Io non sono tanto d'accordo, perché il Brasile, secondo me, è molto criticatissimo, ha dimostrato una tenuta mentale, una forza mentale straordinaria, cioè sta giocando con una pressione addosso dall'inizio che è una roba, come dire, difficile anche da misurare, da capire. E sì, infatti hanno avuto bisogno di una psicologa che tra l'altro credo che abbia richiamato proprio ieri Felipao per far parlare con la squadra, e secondo me non è scontato, cioè proprio magari l'assenza di Neymar e quella anche di Thiago Silva, che non va scordata, potrebbe essere, come dire, un elemento, uno stimolo, una spinta in più al Brasile per fare questo miracolo. Cioè, secondo me il Brasile, quando la palla di Pinilla ha preso la traversa, lì è arrivato il segnale. È lì questo fa parte del mondiale delle botte di fortuna. È il mondiale, vale anche per l'Argentina allora con il palo di Zemaili. A proposito della pressione, vi faccio sentire Maradona, che secondo me ha espresso un concetto abbastanza interessante, anche se i brasiliani ce l'hanno a morte con Maradona, su cosa dovrebbe fare d'ora in poi il Brasile. Maradona: Brasile deve cambiare su mentalità, deve cambiare su forma di giocare, e soprattutto Brasile tiene que jugar para Brasil y no para la gente. Hasta ahora la gente a Brasil le ha messo en testa una presión incredibile que i giocatori no sopportano. No, può aiutare Pierre il fatto che, venendo a mancare Neymar, tanti brasiliani magari un pochino si sono sfiduciati della possibilità di vincerlo questo mondiale in casa? Io l'ho detto, alla fine Zuniga è un alleato di Scolari, perché qualunque cosa succeda, tanto la colpa sarà sempre di Zuniga, però può essere un vantaggio psicologico. Sì, può essere un vantaggio, può essere, tante volte, insomma, nel calcio vediamo questo strano fenomeno di un giocatore chiave che si fa male o comunque che è indisponibile, e questa cosa finisce per responsabilizzare gli altri, finisce per dare spazio e motivazione agli altri giocatori. È una cosa che non succede sempre, però non è neanche così rara. Basti pensare quello che ha fatto comunque la Colombia in questo mondiale, senza la messa al caos, insomma, non era così scontato che arrivasse ai quarti di finale con questa autorità. Quindi questo è quello che potrebbe succedere, e poi in generale stiamo parlando adesso di due partite che possono anche essere pareggiate e vinte ai rigori per arrivare a un paradosso, quindi si può anche vincere il mondiale da qui in poi senza segnare un gol, tranne i calci di rigore, appunto. Io sono convinto che la Germania sia lievemente favorita. Però insomma stiamo parlando comunque di una partita possibile, la partita secca, tutto quasi è possibile in casa del Brasile, a maggior ragione, insomma. Quanto all'alibi, certo, se le cose dovessero andare male l'alibi sarebbe dietro l'angolo, insomma, ma non credo sia un ragionamento che in questo momento Scolari può fare, ci penserà semmai dopo e lo userà semmai dopo. Sì, ma tu hai capito come gioca il Brasile, perché ci sono un paio di ipotesi, c'è il 4-3-3, c'è l'idea di invece di mettere Willian, ammesso che possa giocare. Matteo Barani fa segno di no. Pierre. Ma allora, ci sono tante ipotesi, anche perché a questa assenza di Neymar si aggiungono altre cose che sono successe nel frattempo. Chiaramente David Luiz dovrà trovarsi un partner difensivo che dovrebbe essere Dante, ma potrebbe essere anche Enrique, quindi quello porta a dover correggere già la difesa. Maicon penso che verrà confermato e preferito a Dani Alves e poi davanti Willian, credo che sia l'ipotesi più probabile. Quindi 4-2-3-1 con Willian inserito sulla linea dei tre con Benedetto Freddi, sì, sempre se gioca perché almeno in Italia arrivano notizie contrastanti. Le notizie che abbiamo noi da qua per Luigi è che non stia bene, insomma, che anche lui sia in grande difficoltà, esatto, e che ma pensava ha preso una botta ieri, dai, esatto. Io ti dico se fossi in Scolari non escluderei l'idea di giocare con un centrocampo a tre. È vero che finora non l'ha fatto, non l'ha mai fatto, non ha mai tradito la sua impostazione di squadra, neanche diciamo nelle amichevole che hanno avvicinato il mondiale, però contro la Germania, che ha un centrocampo così forte, così fisico, così solido, insomma, forse magari un centrocampista liberando Oscar, potendo mettere Oscar magari diciamo più vicino a quelle che sono il suo ruolo nel Chelsea, con Fred dall'altra parte, Hulk un tridente, probabilmente potrebbe aiutare un po' più il Brasile a contrastare la Germania. Questo sicuramente, insomma, darebbe un po' di solidità in mezzo. Guarda, qui ho davanti il giornale dove appunto si dice che aspetta, può levare una pancata nascosta, quindi una botta alle costole, una dividita con Hernanes, un contrasto con Hernanes, ma la Saida poi appena sotto precauzione quindi quindi verrà rimesso in piedi e cioè lui non preoccupa para partire la terza fea contro l'Alemania in Belo Horizonte. Pier, non preoccupa, tu che sei laggiù, ma non ti sembra che ci sia un po' troppo vittimismo, un tentativo di drammatizzare qualunque cosa? Adesso va bene che il Brasile ha tanti infortunati, tanti problemi, però a dire che addirittura questi partono col sfavore del pronostico perché sono condizionati dall'infortunio di Neymar e da tutti i problemi che c'hanno, alla fine sono il Brasile, giocano in casa, avranno anche qualche vantaggio. Ma guarda, qui non c'è tanto questo clima, sinceramente. Cioè, a me sembra più una nostra giusta, corretta valutazione il fatto che la Germania può essere favorita. Non mi sembra che qui nel paese giri questa idea. Certo, la botta di Neymar fuori è forte, insomma. Stiamo parlando del giocatore migliore, del giocatore che doveva guidare questa squadra e che in parte l'ha anche fatto. Quindi, insomma, sarebbe stato come togliere, come poi successe poi di fatto nella finale, il misterioso episodio della sua partita così negativa a Ronaldo nella finale del 98. Stiamo parlando di questo giocatore qui, o Zico nell'82. Ma Zico nell'82 comunque aveva dei giocatori che condividevano con lui il ruolo di migliori, o comunque che erano subito dietro. Lui era la stella, ha estraiato football, ma subito dietro c'erano altri giocatori importanti. Qui dietro a Neymar c'è poca roba, insomma. Sì, no, c'è nulla, abbiamo sentito prima Tafini, il Brasile fin qui ha giocato in 8, c'è il rischio con la Germania che debba giocare in 7, sì, perché comunque Neymar era uno degli 8 che giocava. Poi citava il 62, però in effetti c'era Garrincha. Viceversa, noi celebriamo tanto la Germania, ma in Germania non sono così contenti della loro nazionale, sono un po' polemici per il fatto che giochi un po' troppo alla Guardiola. Sì, diciamo. Poi Löw aveva le valigie pronte. A proposito di botte di fortuna, è uno degli altri miracolati di questo mondiale. 800 24 00 24, apriamo anche una parentesi di mercato. Ha twittato un collega che io reputo affidabilissimo: colpo dell'Arsenal, preso Alexis Sanchez per 41 milioni dal Barcellona al cileno, un quadriennale da 4 milioni e mezzo più bonus. E ciao Juventus. Tutti convocati. No, per me è solo esperienza. Io voglio sempre firmare con la stessa squadra, con giocare per la Francia. Io sono solo orgoglioso di giocare qua, di essere qua. E per la Juve? E per la Juve viene dopo. Questa è la voce di Pogba dopo l'eliminazione contro la Germania. Oggi c'è molta Juve sulle prime pagine di mezza Europa, soprattutto per Vidal. C'è Luca Marchetti che saluto di Sky. Ciao Luca. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao. Noi abbiamo appena dato questa notizia, Sanchez all'Arsenal, ce la confermi, ti risulta? Sì, sì. Ci sta. Ci sta? Ci sta, è da diverso tempo che ne stanno parlando. Il Liverpool voleva inserirlo nella trattativa per Suarez al Barcellona, ma il ragazzo preferisce andare all'Arsenal. e quindi si potrebbe chiudere, girano anche le cifre, 41 milioni, Barcellona che evidentemente ha bisogno anche di rientrare perché sta per staccare quell'assegno da sì, quasi 80 milioni di euro. Infatti al Barcellona prenderli dall'Arsenal, prenderli al Liverpool poco gli importava, se il ragazzo era più contento di andare all'Arsenal, l'importante è avere un po' di soldi per abbassare la cifra di Suarez. Oggi in questa caldissima domenica d'estate, caldissima almeno a Milano, io su Sky ho visto questa meravigliosa foto di Cairo e Galliani che si stringono la mano, i tuoi colleghi del mercato di Sky hanno detto ecco primi cenni d'intesa per Cerci al Milan. Si gioca un po', io penso che sia stato il saluto di commiato, ti dico la verità. Tra Galliani e Cairo, cioè avevano preso un caffè, una bibita, qualcosa. Sì, grazie. Ciao Urbano, ciao Adriano. Però è anche vero che di Cerci avranno parlato sicuramente, al di là del fatto che quella non è la stretta di mano per la chiusura dell'affare Cerci. Io credo che sul discorso Cerci il Milan sia molto attivo, molto attento. Cerci se ne andrà dal Torino molto probabilmente. E il Milan è una squadra che sta cercando un attaccante con quelle caratteristiche, forse anche su quell'ordine di prezzo, perché il prezzo di Cerci è sicuramente più basso di quello di Iturbe o di quello dei tanti giocatori che sono stati accostati al Milan, da Griezmann alla Vezzi, da Valbuena a Iturbe o a Kouyaté, e anche l'ingaggio del giocatore non è stellare, non è già da top, super top. Quindi è un giocatore che peraltro qualcuno ci dice che è stato in vacanza a Formentera vicino a lui, che abbia parlato diverse volte con Inzaghi. Sì, perché ormai si fa il mercato del Milan, si fa tra Ibiza e Formentera, abbiamo imparato in questa stagione. A proposito di aspetti esteriori del mercato del Milan, io non so se chiedo ai miei amici qui, Matteo Marani e Fabrizio Biesin, se avete visto la foto, ampiamente rivedibili Bermuda rosso per Gagliani, entrambi, e color Luca, salmone, un brutto spettacolo, color diciamo, salmone un per, brutto spettacolo. Per Cairo, diciamo un Cairo. Che Gagliani è uno specialista delle foto, ce n'è una molto famosa ai tempi della trattativa per Tevez, poi le cose andarono male, per cui diciamo che non è fortunato con le foto. Sì, posso dire però la mia sensazione, non so se anche Luca condivide, io credo che molto spazio sia stato occupato dalle chiacchiere anche di federazione, al di là del mercato, sicuramente di Cerci hanno parlato, stanno parlando, ma credo che il sapore di questo incontro in Versiglia sia un, diciamo, un sapore più politico che non operativo più di mercato. Più collotito però, Matteo, secondo me. Sì, più collotito e prezioso, cosa inquietante, poi abbiamo tempo per parlarne, noi stiamo qui fino alle 19, perché mentre noi siamo qui a chiacchierare, a scherzare, a giocare su Zuniga, si sta decidendo il futuro del calcio italiano, un po' a Forte dei Marmi e un po' chissà dove, a Roma, dove il giovane Tavecchio sta mettendo insieme tutte le sue pedine. Restiamo però al mercato. Un uccellino ha detto Pato all'Inter. C'è Biasin che è preoccupatissimo, ha spettinato gli ultimi due o tre capelli alla sola ipotesi, sono caduti anche quelli. Di Fabrizio starei tranquillo. Fabrizio, stai sereno. No, più che altro mi sembra, ecco, bravo. Mi sembra francamente un'operazione che non sta in piedi, perché creare un possibile problema a una squadra che già di problemi ne ha tanti non mi sembra una scelta molto logica. Sai qual è la verità di questa notizia? La verità di questa notizia è che Pato vuole tornare in Italia. Sì, a tutti i costi. Lui, ma questo l'avevamo capito, questo l'avevamo capito. Ma c'è anche Pardo? Sì, c'è Pardo, Pier. Hai notizie di Pato lì in Brasile? Ho evitato di parlare di Bermuda dopo le foto che girano su social. Bravo. Ma se vogliamo fare un podio ideale, quelle di Pardo sono meglio di quelle di Galliani e di quelle di Cairo. Io invito la gente a casa, Twitter, c'è il sito di Gianluca Di Marzio, guardatela quella foto perché è meravigliosa, Pier. Beh, fa piacere vedere che è pieno di amici che hanno fatto questa foto, grazie. Ma dove l'hai presa? No, la foto che sta sul sito di Gianluca non è la tua, Pier. No, è quella di Galliani e Cairo. Hai tremato. Ma Pier, dici dove li hai comprati. Non credevo di essere così importante, direbbe Vasco. Ho comprato, con le Bermuda, insomma, non è che. Ma qui adesso sono 40 gradi, stanno tutti in Bermuda, ribadisco, non solo io. Vabbè, quindi di che parliamo? Di Ciriole? Le Ciriole, lo diciamo a chi non lo sapesse, sono una pasta acqua e farina, vero, Marchetti? Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Come come si cucina una perla di filiole? Guarda, fai bollire l'acqua. Abbiamo 30 secondi, fai bravo. Via, Luca, per chiudere, dimmi solo se questa storia dei 50 milioni di sterline più Nani per Vidal, che oggi scrivono i giornali inglesi, è una roba che ha un senso compiuto o no? Non in questi termini. Che Vidal interessi al Manchester, sì, un'offerta da 50 milioni non è mai arrivata alla Juventus. La Juventus non ne sa nulla. Non credo neanche sia pronta, anche perché la pista Nani-Juve è molto molto fredda, e considera anche che Juve e Manchester vorrebbero parlare, più la Juve naturalmente, di Evra, ma il Manchester ancora non ha risposto. Sì, anche perché per 50 milioni più Nani, Vidal credo sarebbe già sull'aereo per Manchester. Grazie Luca! Grazie a voi, buon pomeriggio. Ciao Luca. Piester lì, ci fermiamo Bet Corner, ma siamo qui fino alle 19, eh? Quote e pronostici. Quando sono rimaste in quattro in grado di andarsi a prendere la Coppa del Mondo e in attesa delle semifinali che cominciano martedì, è possibile indovinare chi salirà sul trono del mondo alzando la Coppa al cielo di Rio il prossimo 13 luglio. Ecco le quote SNAI per il vincitore del mondiale. Il Brasile non è più l'unico favorito, perché la sua quota, 3,50, è ora la stessa di Germania e Argentina. È quotata invece 4,50 l'Olanda, l'unica delle quattro a non avere mai vinto un mondiale, neppure ai tempi del calcio totale di Cruyff. Con James Rodriguez e Neymar a casa, ecco i nomi del possibile capocannoniere del mondiale. Messi è il favorito ad andare a prendere James Rodriguez, che al momento è in testa con 6 reti. Lui è quotato 3,50 ed è stato autore di 4 gol. Müller, anche lui a quota 4 nella classifica cannonieri, è quotato 6,50. Van Persie, che a quota 3 è quotato 15, Robben anch'egli a quota 3, quotato 20, Higuain è quotato 150, Fred 200, Klose addirittura 300. Questa era l'ultima delle quote di oggi, noi ci risentiamo domani. Tutti convocati. Io ho in mente una cantera federale dove, ribadendo e riverdendo i principi di Berzò, di Vicini, di Valcareggi, siamo arrivati a avere grandi risultati. Il buffo di questa storia è che siamo dotati del centro tecnico più importante del mondo, dove tutti vengono a imparare e fare lezioni di calcio, e avremmo problemi a trovare un tecnico. Fido fortemente delle culture del commissariamento, sono culture antidemocratiche, scusate l'idea, e quindi come tale poco rispettose della libertà associativa che deve esserci in un'associazione che giustamente è vigilata, per come tutte le associazioni, le federazioni, ma che deve rispettare le decisioni della propria base. Ma lei dico, signor Gabrini? Sicuramente potrei farlo, penso che siano su 10 allenatori, 9 direbbero di sì. Sì, no, ma lei dico, cioè, signor Gabrini, lo farebbe gratis. Sei il decimo o sei il nono? L'allenatore della nazionale, non si è capito questo. Cioè, gratis, certo, sì. Le garanzie dovute, certo. Dobbiamo istituire un grande concorso a premi, anche se purtroppo la sua epoca è quasi finita, cioè vince chi riesce a interpretare la super cazzola di del presidente Abete. Ne abbiamo sentita una meravigliosa, è poco democratico. Ma non aveva finito lui, no, c'è ancora una coda. Ha quasi finito come Carraro, quindi per altri 20 anni. 20-30 anni ci troveremo Abete a rappresentarci da qualche parte. Oh, io ringrazio Vincenzo da Bari che ha resistito. Lì lotta insieme a noi, anzi guarda, facciamolo subito. Vincenzo, niente, è caduto, è svenuto sul più buono. Vincenzo, niente, dai, proviamo a riagganciarlo, però, perché è minuti che aspetta. 800 24 00 24, c'è Pierluigi Pardo dal Brasile, c'è questo weekend Pier in Italia, te lo raccontiamo, tu sei lì a Copacabana, ti stai divertendo, noi invece seguiamo tutti i vertici, perché ci sono Lotito Gagliani, Preziosi a Forte dei Marmi, c'è Tavecchio in qualche stanza di Roma, che stanno decidendo il futuro del calcio italiano. Il poco che abbiamo capito noi è che comunque vada non sarà un successo, Pierre. Queste sono le cronache dall'Italia. Ma io sono d'accordo con Barbara Berlusconi, nel senso che credo che siamo arrivati alla necessità di dare una, di fare un rinnovamento anche generazionale, e mi sembra, insomma, onestamente, con tutto rispetto per Tavecchio, che poi sarà un bravissimo dirigente, non discuto, ma non mi sembra in questo momento, dal punto di vista dell'immagine, forma e sostanza si combinano spesso nelle cose, non mi sembra una soluzione così, così ottimale. Sì, Tavecchio il giovane, che però numeri alla mano, io chiedo conforto a Matteo Marani, che dall'alto della sua esperienza è sicuramente più dentro a queste cose di tutti noi. Tavecchio l'11 agosto quasi, il nuovo presidente, quasi certamente sarà il presidente della Federcalcio. Non si esce da questo. Non ho dubbi, cioè, per come è fatta oggi la situazione non ci sono alternative, nel senso che l'11 verrà eletto, perché nell'assemblea federale a Roma avrà il 34% dei voti che gli arrivano dai dirigenti, diciamo, locali, insomma, quelli del calcio dilettanti, che andranno tutti a votare, ve lo garantisco. Avrà il 17% della Lega Pro, e in più la Serie A, perché la Serie A, Lotito, Gagliani, questi, sì, incontro, almeno mezza Serie A, quelli, ma secondo me c'è anche mezza Serie B, che perché si riconoscono... non sono convinto che la B sia tutta, diciamo, col teorico, perché non c'è in questo momento, col teorico oppositore di Tavecchio. Si è fatto il nome di Abodi, ma credo che Abodi stesso capisca, come dire, che rischia di essere poi un trappolone per lui, un po' come è già successo l'altra volta con la Lega A, in cui si è candidato, poi chissà perché è uscito sconfitto. Albertini, che tra l'altro, lo dico così en passant, per me è il candidato giusto, perché, ma non solo per la sua storia calcistica, perché mi sembra comunque una persona intelligente, una persona preparata, che aveva anche delle cose da dire, ma ha nasato lui, ha fiutato lui per primo il problema, e quindi ha fatto due passi indietro per non farsi bruciare. Allora, dico questo, per come è fatta oggi la situazione, le alternative sono solo due: o si fa il commissariamento, ma mi pare che nessuno voglia andare verso quella strada, a parte, diciamo, le motivazioni spiegate da Betti in quella lingua un po' strana che è la betese, oppure Tavecchio, perché non, per quello che dice lo statuto, oggi Tavecchio viene eletto, e io non ho dubbi che sarà lui l'11 agosto. Posso dire solo un'ultima cosa? Secondo me, Pierluigi, lo dico anche a te, io credo che dobbiamo però sfuggire da un errore nella critica nostra, cioè non dobbiamo buttarla sull'età, perché quello è il motivo che arma di più Tavecchio, perché lui ti può sempre dire, non è una questione di età, e non è, se vuoi, neanche una questione di uomini. Io credo che sia sbagliato profondamente il metodo, perché se anche lì tu metti un quarantenne, un trentenne, un ventenne, uno veramente bravo, ok? Il problema è che poi deve andare dalla Lega Nazionale Dilettanti per avere l'ok, deve chiedere l'ok agli allenatori, deve chiedere l'ok ai calciatori, cioè è, sì, frutto di mediazione. Anche il curriculum fa la differenza. Se avete stato se tu per 15 anni sei presidente, cioè, dei dilettanti, e lì sei stato fermo, e non è che la Lega Nazionale Dilettanti ha fatto chissà cosa come miglioramenti in questi 15 anni, qualcosa vorrà dire, Pier. Adesso non so l'età di Abodi, ma mi sembra che Abodi negli ultimi anni, adesso non ne parliamo troppo, sennò veramente poi lo bruciamo, come dicevi tu prima, Abodi mi sembra che negli ultimi 2-3 anni abbia rinnovato e migliorato molto l'appeal della Serie B, attraverso una serie di innovazioni necessarie, dalle partite a dicembre quando non c'era la Serie A, a tutta una serie di metodi e di soluzioni che hanno reso il campionato sicuramente, sì, ha avuto qualche idea che in mezzo a tanto immobilismo già è parso qualcosa di rivoluzionario. Però scusate se insisto, anche se fosse Abodi, Pier, posso seguirti sulla linea, sono un dirigente che anch'io stimo molto, sulla via ha lavorato benissimo. Ma anche Abodi poi avrebbe le mani legate, perché le componenti ti impongono i vice, cioè lui non potrebbe neanche scegliersi i vice, perché i vice vengono espressi da chi gli porta i voti, quindi lo staff farebbe fatica a deciderlo lui, perché comunque anche il direttore generale, anche le figure manageriali, per come è fatta oggi la federazione, sono espressioni della politica. Ma infatti, Matteo, il problema è questo, cioè o azzeriamo la federazione, che può essere un'idea, sarebbe una grande riformiamo idea, la federazione, ma sarebbe una grande idea. Il fatto è che noi ci siamo stiamo pensando al prossimo presidente federale senza pensare a quello che c'è sotto, facciamo ragionamenti sull'età e mi vanno benissimo, ma ragionamenti sulle idee no. Io sento parlare di cantera E mi piace moltissimo quello che dice Tavecchio. Il problema è che forse non si è accorto di quello che è successo in Brasile. Cioè, noi possiamo mettere qualunque bravissimo allenatore a guidare la nazionale, ma non basta. Non è l'allenatore da solo che può cambiare le cose. Deve cambiare il sistema. Mi parla di centro federale all'avanguardia. È vero, ma se il centro federale non lo sfrutti, non serve a niente. Se tu a Roberto Baggio, che arriva col suo plico di 900 pagine, gli dici scusa ma non abbiamo tempo per leggerlo, dove vogliamo andare? Sì, e poi c'è anche tutta la questione sul CT. Io rabbrividisco l'idea che l'Italia debba scegliere un CT col criterio che costi poco, perché secondo me è il punto di partenza sbagliato. Poi non necessariamente devi dargli chissà quanto, Pier, però non puoi neanche, non puoi, non puoi neanche sceglierlo low cost. Oggi prima pagina Corriere della Sera, a proposito di CT, la fuga verso il Bosforo dell'ex salvatore della patria, Aldo Grasso parla di Prandelli, lo paragona a Schettino, traffico. Guardi Schettino, che lei si è salvato forse dal mare, ma io la porto veramente molto male, faccio passare l'anima di guai. Vado a bordo, cazzo. Tutti convocati. 800 24 00 24 Federer ha salvato un match point, siamo 5 pari al quarto contro Djokovic, Djokovic che è avanti 2-7-1 nella finale di Wimbledon. Voglio sapere, intanto continuiamo a raccogliere i pronostici sulle semifinali, c'è Roberto da Milano, adesso lo chiamiamo subito, poi vorrei sapere anche insomma un po' chi è il CT ideale anche da casa. Chiamate 800 24 00 24. Io quando sento Cabrini dire ci sono 9 allenatori su 10 che allenerebbero gratis pur di allenare l'Italia, a me viene la pelle d'oca alta così, però questa è una mia opinione. Roberto da Milano, Roberto. Buongiorno anzitutto. Ciao, prego. Ciao. Grazie. No, io ho previsto un po' di tempo fa Germania-Italia, però ahimè è andata male. A questo punto direi sempre Germania e vedo bene anche l'Olanda. Vedo sì, l'Olanda. Quindi Germania-Olanda finale, tutta europea. Sì, sì, tutta europea, e ho azzeccato anche sull'arrivo da solo del Belgio, ecco. Sì, io credo che Germania-Olanda sarebbe, Matteo, una sorpresa. Intanto significherebbe che per la prima volta un'Unione Europea vince un campionato del mondo in Sud America. Tra l'altro la Germania non ha ancora incontrato una sudamericana, no, è la prima volta sarà col Brasile, ecco, altra cosa. Questo è secondo me un qualcosa da tenere in considerazione quando qualche si ragiona sulla Germania. Sicuramente per la Germania, io ho un'idea forse molto controcorrente, cioè in questo momento per me la finale che vedo io è Brasile-Olanda. Pier, tu che finale vedi? Germania-Argentina. Germania-Argentina, ma tu ci copi Pierluigi, Germania-Argentina, sì, ma questo non è il mondiale del Brasile, insomma. L'abbiamo detto. Prego Pier. No, io la vedo la Germania lievemente favorita sul Brasile, e Argentina-Olanda la vedo veramente alla pari, però insomma, ma poi non ci capisco niente, sui pronostici la partita secca è complicatissimo. Sì. Mi sembra che il Brasile sia male, che perda tanto con Neymar e Thiago Silva, tutti e due insieme, mi sembra una squadra un po' corta. Come sei messo in classifica per i pronostici? Bene, sono ottavo su 40, insomma, twittavo, ma sì, sei fuori dalla zona Europa, non fai neanche i preliminari. Sto nel primo 20%, nel primo sestile, diciamo. No, ma in realtà poi quando sei indietro devi cercare di recuperare e fare delle cose ardite, tipo Brasile-Colombia 1-2, che dovevo fare 2-1, ho fatto 1-2 perché bisognava recuperare su quei due scatenati di Terrenato e Ceralda che sono in testa alla classifica, del resto insomma. E poi c'è Marco Castelnuovo della Stampa al terzo posto, che disagio il suo account Twitter. Sì, e tu sei l'ottavo. Dai, restiamo. Poi gli amici di chiamarsi Bomber, molto alti, hanno un punto più di me, sono settimi con un punto di me. Questo la dice tutto sulla necessità della competenza, Pier. No, invece sì. Carta canta, dopo 60 partite non ci può essere casualità. Dai, restiamo sul CT invece. Io ripeto, io rabbrividisco l'idea, chiedo anche agli amici da casa 800 24 00 24 che il CT vada bene purché sia gratis, Fabrizio. No, sono assolutamente d'accordo con te, cioè la filosofia del costa poco allora va bene è una filosofia che non ci può portare lontano, anzi io credo che lo stesso Cabrini che abbiamo sentito poco fa avrebbe dovuto rispondere dicendo no, io ho una professione professionalità, se mi vogliono mi pagano, cioè non si va gratis perché è la nazionale, bisogna arrivare in nazionale perché si è convinti di avere le qualità per guidare la nazionale. Tavecchio ci ha già spiegato che lui non vuole spendere un centesimo per il CT. Questa cosa può andare bene se tu nella tua cantera hai Mourinho, ma Mourinho non è nella tua cantera. Nella tua cantera ci sono tanti bravi allenatori. Per fare il CT non ma basta. Ma chi è che essere... c'è nella cantera oggi degli allenatori che potrebbero essere interni, Guarda, io... che potrebbero essere allenatori della nazionale? Io sono dell'idea che non ci sia un CT pronto per prendere la nazionale, perché per fare il CT devi essere soprattutto, secondo me, un bravo comunicatore. Prandelli ha avuto tanti problemi perché ha sbagliato a comunicare in Brasile all'interno e all'esterno. Ci vuole uno che abbia un po' di faccia tosta. Allora, Prandelli aveva un suo staff che si porta in Turchia con contratto milionario, l'Under 21 ha un tecnico che ha appena iniziato, io credo non sia assolutamente spendibile per la nazionale. Chi c'è di altro? Tardelli da primo allenatore ha fallito, diciamolo senza troppi giri di parole, poi ha fatto il secondo Trapattoni, però Matteo, io credo che non esista un'opzione a basso prezzo interna in questo momento, posto il fatto che non è nemmeno forse la soluzione giusta. Allora, io personalmente sarei per Allegri, perché credo che ci sia bisogno di un allenatore con un certo tipo di profilo, che quindi ha dimostrato anche molto equilibrio, e quel ruolo lì richiede soprattutto equilibrio, quindi penso che potrebbe essere un allenatore giusto. Ma di là, diciamo, della candidatura, io smonto un po' il teorema, cioè secondo me il commissario tecnico è importante e non bisogna risparmiare sul commissario tecnico, però stiamo vedendo delle nazionali che non è che abbiano commissari tecnici presi sul mercato e portati strappati via grandi cifre. Sabiella, lo saprà bene Pierluigi, nel 2011 aveva stato chiamato, aveva già firmato per l'Al Jazeera, stava per andare nel mondo arabo. Ma il CT dell'Argentina non è Messi. voglio dire, e infatti la differenza è questa, fai bene a dirlo Fabrizio, cioè il problema è che noi non abbiamo Messi, non è la questione del commissario tecnico, è più importante Müller o più importante Lowe? È più importante avere Müller? Noi avevamo De Rossi, Buffon, che abbiamo scoperto essere una sorta di senato, sì, però voglio che dire, accompagnava voglio Prandelli dire, nelle decisioni. Questi hanno delle grandi generazioni, dei grandi campioni. Il problema nostro, se mi consiglio, questo è un po' italiano, c'è il designatore 500.000 euro all'anno, il commissario tecnico 2 milioni e mezzo all'anno, dopodiché non abbiamo né giovani né arbitri. Allora cerchiamo di rimettere in movimento il movimento italiano. Il movimento italiano va riformato, perché qui ne abbiamo parlato molto di Tavecchio, di questi, ma vogliamo spendere una parola, una, sul fatto che i club continuino a comprare solo unicamente giocatori stranieri, che ancora in questo mercato dopo il disastro stiamo parlando di giocatori stranieri che fanno operazioni in Sud America, alcune lecite, alcune molto scure? Cioè, diciamo anche che cos'è l'Italia di oggi, o ci limitiamo a Tavecchio e al CT? Perché secondo me rischiamo di perdere un po', come dire, l'obiettivo della nostra cosa. Se arriva una generazione di campioni come al Belgio, come alla Germania, come alla Francia, come hanno quelli che sono riusciti a riformare, secondo me diventa Che vanno costruite, diventa secondario. Sì, sì, diventa secondario. Tanto quinto set a Wimbledon, perché Federer ha fatto il break e poi ha vinto 7-5 il quarto set. Gianluca dall'Aquila, Gianluca. Sì, buonasera. Ciao, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Secondo me il commissario tecnico ideale per l'Italia sarebbe un signor allenatore, oltre che una signora persona, come Guidolin. Guidolin. Per me non è un problema di costo, squisitamente di costo, perché sono dei professionisti. Però un signor allenatore, una signora persona, Guidolin, potrebbe essere la persona adatta. E poi bisogna reimpostare nuovo, come si diceva poco fa, ripartire dai giovani, stare attenti al mercato che facciamo. Andiamo a comprare tutti all'estero, ci sono delle squadre italiane composte esclusivamente da giocatori esteri. I nostri dobbiamo iniziare a ricoltivare i vivai. Sì, secondo me Guidolin non ha il profilo per fare il commissario secondo tecnico. È un allenatore eccellente, sì, a tratti eccezionale, dopodiché ha fatto fatica, sono stato a sopportare la piazza di Udine, immaginiamoci cos'è la nazionale. Cioè, mi immagino 2 settimane in Brasile e Guidolin probabilmente non le regge. Cioè non so neanche se è una cortesia che facciamo a lui. Cioè, no, infatti bisognerebbe chiederlo a lui, perché secondo me, io sono d'accordo con te, stiamo parlando di uno dei 5 allenatori più bravi, sì, sì, che ci sono in Italia. In assoluto. Però lui ha voglia di prendersi questo impegno, perché a Udine sappiamo com'è andata, a un certo punto non ce la faceva più, sì, sì, e quindi non è facile fare il CT, anche se poi le responsabilità sono quelle 3 volte all'anno. Però, poi mi permetti Fabrizio, bisogna incominciare a fare i CT contro, perché una delle responsabilità di Prandelli, a parte la fuga che dice, è che lui si è preoccupato, secondo me, troppo della buona stampa. Noi siamo partiti senza una polemica, siamo usciti come di tra gli applausi, cioè negli encomi noi siamo usciti. Sì, ma noi niente processi, mi raccomando, tutto assolutamente sotto traccia. Pier, questo paragone tra Prandelli e Schettino, che oggi viene fatto sulla prima del Corriere della Sera, da Aldo Grasso, non uno qualsiasi, ti piace o no? No, non mi piace perché sicuramente Prandelli ci dovrebbe spiegare delle cose, su questo non ci sono dubbi, e sono anche d'accordo sul fatto, e mi ricordo che ne parlavo il giorno di Italia-Uruguay, perché ero rimasto basito dalla conferenza stampa del giorno prima, alla quale non partecipavo perché facevo i live in quel momento, ma insomma secondo me c'era un clima di luna di miele per Prandelli francamente esagerato, nel senso che poi le domande secondo me vanno fatte, al di là della bontà del personaggio e della signorilità del personaggio in questione, ma insomma stiamo parlando di una allenatore che comunque ha rinunciato ai soldi, e non mi convincerete che in quei 5 minuti tra il fischio finale e la conferenza stampa ha trovato l'accordo con Galatasaray. Sì, è tutto da dimostrare, no, che sarebbe sopravvissuto alle due settimane successive. Però sei d'accordo che il suo errore sia stato, cioè, uscire dal mondiale, andare in conferenza stampa, difendersi dicendo io pago tutte le tasse, e 10 giorni dopo sei in Turchia a prendere una valanga di soldi? Cioè, diciamo che probabilmente lui non ha fatto nulla di sbagliato. Che deve fare? No, ma infatti tutti noi avremmo tutti noi avremmo accettato l'offerta turca, ci mancherebbe altro, però da un punto di vista formale l'italiano che ha visto quello che è successo in Brasile dice: allora forse ci hai preso in giro, allora forse sapevi già qualcosa prima. È un dubbio che ci rimane. Ma qualcuno mi sa dire se ad esempio Prandelli se ne va lasciando ad esempio una relazione, qualcosa su perché è andata male in Brasile, oppure grazie a arrivederci. Capello va in Parlamento. Capello va anche detto che rimane. Secondo me il Parlamento italiano fortunatamente ha altro da fare. Speriamo. Capello resta lì perché deve continuare anche il lavoro. A qualcuno spiegherà Prandelli che cosa è andato male, oltre a dire che era cambiato il clima. Che cosa non fa una battuta, Giovanni? A chi lo spiega? In questo momento chi lo spiega? Chi si aggira per i corridoi in federazione? Cioè, chi c'è in questo momento fisicamente in federazione? Okay. Il presidente non c'è, il commissario tecnico non c'è. C'è il dottor Castellacci. Cioè, voglio dire, è chiaro. Guarda, che secondo me è mancata solo una cosa, un passaggio, e non è poco, ne parlava anche Roncone qualche giorno fa del Corriere della Sera. È mancata una conferenza stampa finale che teoricamente, insomma, sempre c'è stata il giorno di chiusura, quindi ci sarebbe dovuta essere a Mangaratiba o anche in Italia dopo la conclusione. Quella è sicuramente mancata, e sicuramente Prandelli avrebbe dovuto, dopo essersi dimesso, spiegare le cause del fallimento, ma per il resto insomma ha fallito Val Galatasaray. Probabilmente se avesse fatto al Manchester United o al Manchester United, cioè alla panchina, andava in una panchina ancora più importante, oppure rimaneva. Cioè io non. Il problema è che, però perdonami, lui è convinto di aver chiuso con quella conferenza in Brasile, cioè, no, ma lui è intelligente. Lui ha detto, se voi leggete i giornali in questi giorni, soprattutto un certo giornale sportivo, io vi dico, prima o poi uscirà l'intervista a doppia pagina di Prandelli, che spiegherà la sua verità, si sceglierà l'interlocutore come ha spesso fatto, perché sì, per questo Prandelli godeva e gode tuttora di ottima stampa, a parte qualche inciso al veleno che gli è stato riservato nelle ultime ore, tipo quella sulla tassazione turca, non so se l'avete notato, sì, su sempre sul noto quotidiano di qui sopra, quindi prima o poi spiegherà, però insomma io credo che il paragone con Schettino un po' ardito, però un fondamento c'è, Pier, noi stiamo parlando, parliamo di soldi, di spending review, non abbiamo i soldi per l'allenatore, questo qui ha rinunciato ai soldi. Avrà rinunciato perché c'è un altro che glieli dà, ma intanto ha rinunciato, comunque un minimo di rischio se l'è preso. Pier, non possiamo, in un paese dove nessuno si rimette. Però Pier, scusami, posso andare controcorrente io sul tuo ragionamento? Secondo me era anomalo il contratto fatto prima della partenza per il mondiale, io l'ho detto e l'ho scritto, cioè tu non puoi fare un biennale prima del mondiale, dopodiché il gesto nobile che rinunci, ma prima del mondiale non si fa un prolungamento di 2 anni, non perché Prandelli ha lavorato bene, ma che senso ha, che cosa fa, che cosa rafforza? forza, che tanto se ti va male parliamo, vai fuori. Parliamo un attimo di questo biennale, no. Perché questo biennale, scusate, che è stato apparecchiato a febbraio, dopodiché è stato firmato una settimana prima della partenza, come a dire, andiamo bei sereni a fare il mondiale, ma nessuno crede in questo contratto. Biennale che era un ex quadriennale, che nel frattempo era dimagrito. Posso dire, sì. Sono d'accordissimo, il biennale non lo doveva fare, però gli hanno proposto, cioè non è che lui ha puntato una pistola alla tempia da Bete e gli ha detto fammi il biennale se no ti sparo. Questo è un professionista che per 3 anni ha fatto molto bene l'allenatore della nazionale, sì. Gli è stato proposto un contratto e lui lo ha firmato, ha fallito e si è dimesso, punto, la federazione non gli sta dando più una lira perché sì. Si è dimesso, poi che si è dimesso perché tanto c'aveva un lavoro da un'altra parte, va benissimo, questo è accettabile, ma su parte del mercato ce la vogliamo prendere perché il Galatasaray gli ha fatto un'offerta, cioè mi sembra, no, però possiamo dire che non sono sufficienti quelle cose che ha detto lì a Natale mezz'ora dopo la fine della partita, grazie, paese, arrivederci. Ma in un paese dove siamo tutti abbarbicati, dove tutti sono abbarbicati alle poltrone e non si rimettono nemmeno se, cioè, li devi proprio cacciare. Insomma, questo qui è uno che di fronte a un fallimento grave del quale è responsabile, non è che gli sto facendo sconti, è responsabile. Pier, comunque ha rinunciato. Pier, io la penso in tutto come te, cioè nel senso credo che lui abbia fatto degli anni molto buoni in nazionale e che abbia clamorosamente fallito il mondiale. Ti faccio anche notare che nella storia azzurra tutti quelli che sono usciti ai gironi di qualificazione se ne sono andati via tutti. Oggi sei luglio, oggi sei luglio, cioè, nel senso, Fradelli, non rientra nella normalità, rientra nella normalità questo. Poi sono d'accordo con te che non lo si può buttare a mare, visto che stiamo usando le metafore per quello sì, che ha fatto, che comunque ha fatto anche delle cose importanti in questi anni. Vi devo fermare, c'è la pausa. Pier, ti saluto. Ciao. A domani, ciao. Pier, dopo il GR delle 14. 800 24 00 24, abbiamo tanti amici, poi ripartiamo da loro. Beh, mica male, Tutti convocati. 800 24 00 24, siamo caldi sul tema del CT, Prandelli, Schettino. Noi abbiamo parlato con Zaccheroni oggi, con il buon Giorgio De Luca, autore di questo programma, ha detto si fa il mio nome, non voglio comparire troppo, ha declinato l'invito, però Zaccheroni resta ancora in corsa. La verità è che i telefoni suonano e Zaccheroni è ancora un'opportunità per questa nazionale, insieme a Mancini, insieme ad Allegri, insieme alle soluzioni di questa fantomatica cantera della federazione. Libero dalla provincia di Bari, libero. Sì, pronto. Ciao, buon pomeriggio. Ciao a tutti, buon lavoro. Volevo semplicemente riconfermare, come avete accennato poc'anzi, la figura di Zaccheroni, perché mi sembra una persona molto razionale, equilibrata e carismatica, e non per campanilismo, ma da buon romagnolo penso che riuscirebbe ad amalgamare anche qualche scugnizio, qualche testa calda, mentre gli altri che avete accennato, dagli Allegri e tutti quegli altri che avete accennato adesso, mi sembrano troppo giovani e troppo deboli di carattere, capito? Sì, insomma, Mancini debole di carattere mi sembra. No, un attimo, ecco, adesso io mi riferivo a Allegri, però giovane comunque. Sì, ma anche Allegri, secondo me, perché sopravvivere al Milan non è da tutti. Libero, ma a te piacerebbe ripartire da un allenatore che è appena stato, diciamo, cacciato, poi in realtà se n'è andato lui dal Giappone. Non ti sembra di ripartire con una figura invece un po' debole, tra virgolette, perdente? Sapere le motivazioni reali che noi qui non possiamo ancora. La motivazione è che il Giappone non ha fatto un mondiale straordinario. Poi in realtà Zaccheroni aveva già deciso di andarsene, di sicuro non hanno fatto nulla per trattenerlo dopo il risultato del Brasile. Grazie comunque, libero. Angelo dalla provincia di Bari. Ha sempre vinto una Coppa d'Asia comunque, lo dico. No, ma Zaccheroni ha fatto bene col Giappone. Angelo. Dave, buonasera. Prego. Volevo dare un nome nuovo come CT. Sì. Secondo me sarebbe l'ideale, anche perché data la possibilità all'uomo di scegliere i giocatori e ci farà divertire, vi farà divertire, Giampiero Ventura. Sì, siamo sempre nell'ambito allenatori, forse il profilo è un po' diverso, Angelo. Può fare il selezionatore, signor Ventura. Guardi, lo conosco da Bari, le posso dire, sia con i precedenti, sia come allenatore a Bari è la persona ideale per la nazionale, guardi. E poi per cortesia, dimenticate Prandelli, perché molto spesso dimenticano i giornalisti che Pandelli ci ha fatto giocare in 7 la finale europea, ha portato una squadra cotta, mai successo in precedenza. Sì, però ad esempio, quella volta lì, secondo me, l'autocritica di Prandelli che ha chiuso quell'esperienza è esattamente quello che ci si attende anche dopo una delusione come è stata quella finale, non ovviamente tutto l'europeo, cioè un'analisi sul perché si è perso, probabilmente si sarebbe perso lo stesso, ma un qualcosa che lascia un'eredità. Io contesto il modo in cui Prandelli ha salutato e se n'è andato dopo questo mondiale. Grazie Angelo, no, però Ventura. Ecco, noi restiamo nel capitolo Ventura, anche qui parliamo di allenatore, vuol dire bravo, esperto, che ha fatto grandi risultati da tantissimi anni, da Pisa, venendo avanti, Bari, Torino. Secondo me è un allenatore però da quotidiano, questa è l'impressione, cioè uno che sicuramente migliora il materiale che ha, ma sicuramente ha bisogno di averlo vicino e costruirlo piano piano o ricostruirlo come nel caso di Cerci o dello stesso Immobile. Non so se uno che 4 settimane all'anno arrivando lì, dato un carattere anche abbastanza come dire duro, tosto, quello di Ventura, riesce a fare quella che è una gestione, perché poi il commissario tecnico ha molto questo ruolo qui, cioè deve anche gestire, non ha la quotidianità, che è un'altra cosa. Sì, anche perché scordiamoci, nei prossimi 2 anni Stage e tutto quello che in qualche modo ha avuto, comprese le convocazioni di 30 e passa giocatori per una singola amichevole, cioè lo Stage mascherato che ha avuto Prandelli soprattutto nell'ultimo periodo. Intanto arriva una notizia meravigliosa che noi scriviamo nell'elenco delle pazzie di questo fine settimana: la Procura della Repubblica di Roma ha aperto un fascicolo di indagine sull'episodio del morso di Suarez ai danni di Chiellini nel corso di Italia-Uruguay del 24 giugno scorso. Noi questo lo mettiamo nell'elenco con la richiesta d'arresto per Zuniga, quindi magari lanciamo anche... È una cosa seria, no, è vera, me l'ha segnalata Giorgio De Luca, quindi è una cosa vera per definizione. Chi c'è? Marco da Torino? Marco? Ciao, buonasera a tutti. Ciao, prego. Se posso dire la mia, penso che noi in Italia abbiamo bisogno di un CT un po' figlio di, come si dice, sì, perché in questo momento un CT non riesce a sopportare tutte quelle che sono le pressioni a cui è esposto. In più volevo dire una cosa, noi abbiamo grossissimi problemi con il fatto che comunque abbiamo troppi stranieri, bisognerebbe di nuovo chiudere a 3 stranieri, spingere di più sui settori giovanili in Italia che sono stati trascurati. Abbiamo tantissimi giocatori giovani in Italia. Sì, secondo me sarebbe sufficiente tenerceli, perché mi risulta che potrebbe partire Scuffè, destinazione Spagna, che secondo me dopo Verratti lasciato partire perché 12 milioni erano troppi, sarebbe un altro colpo mortale alla, diciamo, al progetto di poter ricostruire il calcio italiano partendo dai propri giovani. Prego Marco, se vuoi finire. Certamente, il grosso problema è che abbiamo delle cariatidi che governano lo sport in Italia e quindi non permettono delle rivoluzioni o comunque dei passi indietro. Loro hanno consolidato una situazione e questa va bene, punto e basta. Il nostro futuro a livello sportivo calcistico è pari a zero, secondo me. Sì, adesso non esageriamo, perché poi c'è il rischio di dipingerla anche un po' più nera di quello che è. Noi restiamo pur sempre vice campioni d'Europa in carica, e così andremo, ma credo, perché è quasi impossibile non o anche per l'Under 21. Sì, o anche per l'Under 21, però ad esempio di quell'Under 21 noi abbiamo pescato 2 o 3 uomini e gli altri li abbiamo persi. Il problema dell'Under 21 è che giocano tutti in Serie B. 10 anni fa tutti i convocati dell'Under 21 più o meno giocavano in Serie A. Quest'anno avevamo Bardi, unico titolare in Serie A nell'Under 21. Sì, e che passa di prestito in prestito e l'anno prossimo farà un nuovo prestito. Poi c'è chi scrive 349-238-6666, Trapattoni merita un'altra chance per il 2016-2018, secondo me abbiamo già dato. Mentre ad esempio Donadoni potrebbe avere un profilo interessante. Era più divertente quella procura. C'è chi chiede perché non un tecnico straniero come Hiddink, tra l'altro questa è una battaglia di Pier Luigi Pardo, c'è chi cita Conte, citi part-time, cosa credo impossibile. Ma forse l'unica per il cosa che italiano. Abbiamo in questo momento di avanguardia sono gli allenatori, cioè nel mondo prendono gli allenatori costano, italiani. Però costano, cioè quelli che nel mondo prendono, cioè Spalletti, Ancelotti, ma anche Mancini. Però no, costano, ma secondo me costano. Giovanni è giusto porre un tetto, cioè è chiaro che un allenatore non può prendere una cifra illimitata come commissario tecnico, sapendo che non ha l'impegno ovviamente che ha con il club e soprattutto, come dire, deve concentrare. Ma secondo me il commissario tecnico, scusate se insisto, deve servire proprio come dice, come volano della ristrutturazione del calcio italiano, cioè non deve fare 4 partite all'anno e stop, deve lavorare insieme a quello dell'Under 21, deve lavorare sui centri di formazione, deve essere un uomo della federazione, ma soprattutto deve essere aiutato dalla federazione, perché il problema è vero che ci sono troppi interessi sempre a tutti i livelli nella nostra federazione. Magari lo facciamo lavorare anche sulla Ferrari. Marco Mensurati, inviato di Repubblica, ciao Marco. Buongiorno, no, direi che va bene così, la Ferrari sbaglia da sola abbastanza, non c'è bisogno della Federcalcio per andare definitivamente. Non ha bisogno del giovane Tavecchio, lì no, c'è Mattiacci, oggi abbiamo visto di tutto a Silverstone, abbiamo visto il botto di Raikkonen, mi confermi che sta bene però? Sì, una scoriazione e contusione alla caviglia sinistra, stanno addirittura cercando di capire se riesce già a tornare in macchina per questa settimana che sono previsti dei test. Quindi non c'è la speranza di farlo scendere per Hockenheim dalla Ferrari? No, non è una speranza, perché se scende lui sale della Rosa, che è quello che mandava le email alla McLaren nel 2007. Mentre guidava. Ci manca Raikkonen. Sì. Quindi teniamoci stretto Raikkonen. Convocati 800 24 00 24. Oggi abbiamo visto due cose a Silverstone, al di là del botto di Raikkonen. Abbiamo visto, Marco, intanto la vittoria di Hamilton che riapre il mondiale, adesso ha soltanto 4 punti di distacco da Rosberg, che si è dovuto ritirare. Abbiamo visto un bel Alonso. Sì, ma abbiamo visto una bella Formula 1 in generale, piena di duelli, con un ragazzino che si chiama Bottas che ha recuperato dalla 14ª posizione alla seconda, e poi appunto abbiamo visto un Alonso coriaceo che nonostante guidi una specie di trattore è riuscito a resistere all'assalto di Vettel per una dozzina di giri, e poi soprattutto forse ancora più bello, anche se meno apprezzato da quello che mi sembra di capire, ha provato prima a dare la caccia a Button sulla McLaren, insomma una Formula 1 che per larghi tratti oggi ci ha riportato ad epoche dimenticate, di spettacolari. Sì, ci siamo abbastanza divertiti, e non è servita nemmeno la pioggia. Vi faccio sentire Alonso dopo la gara. Beh, è uno scambio un po' strano, in quel momento la macchina aveva un problema aerodinamico sull'ala posteriore, quindi due giri prima che Vettel uscisse dal pit dietro noi, io avevo chiesto alla radio se ci ritiravamo perché la macchina non era in condizione di correre, aveva un problema, come dico, l'ala posteriore si muoveva molto sul curvone veloce, poi non avevamo più carica della batteria e dovevamo salvare benzina, quindi avevamo la tempesta perfetta, e è arrivato Vettel dietro noi in quel momento della gara, quindi eravamo frutta matura, prima o poi ci sorpassava, e avevamo tenuto 10 giri per lo show, ma non c'era più da fare. Frutta matura non è male, come immagine degli ultimi giri della Ferrari di Alonso, con Vettel dietro. I due hanno litigato anche sulla questione delle scie, delle traiettorie. Alonso era sotto warning, voleva lo stesso trattamento per Vettel, alla fine Alonso è arrivato sesto. Mi dai, Marco Mensurati, inviato della Repubblica, un voto al weekend messo tutto insieme della Ferrari? No, il weekend della Ferrari non supera il 4, se consideriamo le qualifiche brutte che ha fatto, e se consideriamo anche così l'ingenuità in partenza che ha commesso Alonso, che ha fermato la macchina con le due ruote a meno 60 centimetri davanti alla linea di partenza, cosa che gli è costata una squalifica, una penalità di 5 secondi. Ciò nonostante, la gara di Alonso in sé è stata molto bella, insomma peccato che la macchina sia inguardabile, però insomma il voto non supera, complessivo della Ferrari non riesce a superare il 4 per nessun motivo. E invece la Mercedes ha confermato che ogni tanto si rompe, e questo è l'unico limite, in questo momento ci salva, perché probabilmente con una vittoria di Rosberg il mondiale si sarebbe chiuso oggi. Ma io questo però non lo credo tanto. Secondo me questo mondiale non si discute sul piano del costruttori, nel senso che la Mercedes lo ha già vinto, ma i piloti rimarrà aperto fino in fondo. Sarebbe rimasto aperto anche se avesse vinto Rosberg, perché comunque sarebbe arrivato secondo Hamilton e lì sarebbero valati pochi punti. E considerando anche che questo è uno sport in cui c'è un pazzo alla guida che ha deciso che l'ultima gara vale doppio, è come se si dicesse che alcune partite sì, siamo ai giochi senza frontiere, siamo ai giochi senza punti, frontiere. Il Fil Rouge, considerando che c'è il Fil Rouge, questo è un campionato che comunque tra i due si chiuderà alla fine. Grazie Marco. Grazie a voi, buona giornata. Grazie Marco Mensurati, inviato della Repubblica. Intanto siamo nel quinto set 3-3 tra Djokovic e Federer. Apriamo una parentesi sul Tour de France. Pier Augusto Stagi, ciao Pier. Ciao, buon pomeriggio. Siamo pieni d'orgoglio per Nibali, che ha fatto una cosa bellissima al di là della maglia gialla, che è quasi automatica per chi vince una delle prime due tappe del Tour. Sì, guarda, l'aveva detto, ma che lui avrebbe provato ogni giorno a inventarsi qualcosa, ma francamente nessuno di noi si sarebbe aspettato sin dalla seconda tappa un colpo così. Eppure lui si fa guidare dall'istinto, ha messo nella fase finale della corsa a lavorare molto bene la sua squadra, in particolare Fuglsang, che ha attaccato tre volte negli ultimi 5 chilometri proprio per tenere lungo il gruppo e quindi praticamente rompere le gambe ai suoi diretti avversari, in particolare ai Valverde, ai Peter Sagan, che erano quelli diciamo più adatti a un arrivo in leggera salita. Sì, mosso, un arrivo mosso di una tappa che sembrava una classica. La tappa era stata veramente molto dura, perché 200 km con 9 Gran Premi della montagna sembrava veramente una piccola Liegi-Bastogliegi. E a 1800 metri Vincenzo si è inventato questo attacco. Ha piazzato lo scatto. Ha piazzato uno scatto micidiale, dopo una serie di scatti e controscatti ha guadagnato 150 metri e non li ha più. Ma questa è l'azione, Pier, di uno che vuole vincere il Tour o di uno che ha voluto approfittare immediatamente di un'occasione per fare un capolavoro. Ma si dice spesso chi corre per vincere il Giro, il Tour, i grandi giri, nei primi giorni sta tranquillo. Beh, guarda, ti potrei dire semplicemente che l'anno scorso uno che ha cominciato ad attaccare in Corsica, Chris Froome, poi è arrivato a vincere il Tour de France. Contador non è da meno, tant'è vero che addirittura oggi nel finale, se l'avete visto, Contador è stato uno dei più attivi, è scattato proprio Contador con la ruota Nibali e con la ruota Froome. Quindi tutti i grandi si sono mossi e poi arriva una situazione che ogni gara è una storia a sé. Sei un rapace, quando vedi la preda, quando vedi il traguardo vuoi agguantarlo. Soprattutto Nibali aveva bisogno di certezza. Una settimana fa lui aveva maledettamente bisogno di una maglia tricolore, di una vittoria, che era la prima vittoria stagionale, l'ha ottenuta e oggi ha fatto una seconda prova per vedere innanzitutto il suo stato di salute e verificare anche lo stato di salute dei suoi diretti avversari. Mi sembra che il risultato sia più che positivo. Certo, dire, lo sa benissimo anche lui. Sì, che da qui significa che si corre. Non è così. No, esattamente, certo, è difficile pensare. Mancano esattamente 19 tappe e più di 3.000 km ancora da percorrere. Grazie per Augusto. Grazie a voi, buon pomeriggio. Grazie per Augusto Stagi. Beh, però insomma, abbiamo vissuto una domenica da grandi al Tour de France. Io ringrazio tutti quelli che hanno chiamato. Poi domani, dopo il GR delle 14, ripartiamo dalle 14 alle 16 e continuiamo anche il discorso sull'ipotesi del nuovo CT e su tutti i pronostici per il mondiale. C'è chi scrive: ma quali giovani, di che cosa state parlando? In Italia si parla ancora di Pirlo, Buffon, Chiellini, e allora ora mettiamo Trapattoni o Capello in nazionale. A parte che Capello tra Inghilterra e Russia prende 9 milioni, non è che poi sia andato benissimo, perché se facciamo il bilancio, mi pare che l'ingaggio non sia nelle tasche italiane in questo momento. Non tutti accetterebbero di lavorare gratis, probabilmente Capello non è fra questi. No, è il CT più pagato al mondo. Capello fa parte dei primi 9 della lista, non è il decimo, non è, o comunque è il decimo e non è nei primi 9 che accetterebbero di lavorare gratis. Ci fermiamo qui, perché intanto a Wimbledon vanno avanti 4-3 giochi Djokovic, siamo nel quinto set. Io ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Roberto Scaltritti e Paolo Corleone che si sono alternati in regia. Beh, ringrazio Matteo Marani e Fabrizio Biasin che sono stati qui questo pomeriggio. Ci risentiamo domani dopo il GR delle 14. Ciao. Crefozert, e rafforzi la tua immagine nel mondo. www.creditreform.it vi ha presentato Tutti convocati.